Alfredo ha portato alcune copie della sua relazione. Chi ne ha bisogno può prenderla qui direttamente per seguirla con più attenzione. Grazie. Dunque, ho portato con me queste copie perché si sente bene? Ho portato con me queste relazioni, diciamo, ciclostilate, stampate, perché la... Me lo devo mangiare? No. Perché quello che dirò è un po' diverso, diciamo, essendo a braccio, è diverso da quello che era la relazione, sebbene ne segue lo spirito e anche in alcuni passi anche la stesura. Quindi è bene che è interessato che abbia anche quella, diciamo, relazione originale. Per questo abbiamo fatto queste copie. Io non sono uno storico, quindi non vi parlerò da storico. Sono un curioso della vita, un curioso della realtà. E vi parlerò di alcuni aspetti della vita e della realtà che interessano, penso, tutti, e anche gli anarchici. Alcuni di questi aspetti li trarrò riflettendo su alcune parole di Malatesta. Malatesta era un rivoluzionario famoso, ce lo ricordano i compagni organizzatori nel testo del manifesto programmatico. Un rivoluzionario famoso, cosa significa? È famoso perché la controparte, il nemico, lo rende famoso. Un anarchico non può essere famoso perché gli anarchici lo seguono, lo ascoltano, si interessano alle sue azioni e alle sue teorie, ma perché c'è una cassa di ridondanza che è stata ben delineata dal compagno che mi ha preceduto con la parola piuttosto generica stampa. Ma comunque non è solo la stampa, ma tutto lo strumento organizzativo del potere che ruota attorno alla sua attività e che lo deforma, questa attività, la rende mostruosamente altro, e quindi quella persona diventa famosa. Questo per quanto riguarda il nemico. È chiaro che noi non possiamo cogliere il suggerimento del nemico. Per me Malatesta non era un compagno famoso, non era il più grande rivoluzionario dei suoi tempi, è un compagno mio, che mi appartiene, che nei momenti in cui ho avuto delle perplessità, delle mie sofferenze, in cui mi sono trovato da solo fra le mura di un carcere, leggere quelle pagine, come le pagine di Kropotkin, ad esempio, le memorie di Kropotkin, mi sono state di grande aiuto. Sono state importanti quelle pagine per me, quelle sue parole, perché me le sono portate nel cuore. Non perché mi hanno dato un suggerimento programmatico o perché mi venivano da un uomo che la stampa, il potere, aveva definito un grande uomo. Però questo per quello che riguarda il potere. Ma a rendere famoso un compagno, a rendere conosciuto un compagno, a porre su di lui i riflettori deformati di una visione mostruosa pari a quella che il potere ci costruisce addosso, siamo anche noi stessi, anche gli anarchici stessi, siamo noi che costruiamo i leaders, siamo noi che costruiamo compagni dai quali ci aspettiamo delle indicazioni, quando le indicazioni le dovremmo trovare da noi, dentro di noi, nelle nostre letture, ma principalmente nelle nostre prese di coscienza. È stato anche detto poco fa che la scelta di parlare del concetto di violenza è una scelta che richiama l'attenzione, che quindi rende la relazione più appetibile. Ebbene, credetemi, non, qua si tratta soltanto di un caso. Quando sono stato invitato a partecipare al convegno, ho semplicemente detto: io nel corso di 30 e passa anni che mi interesso di Malatesta, dall'epoca in cui ho fatto l'edizione annotata della, ho pubblicato l'edizione annotata dell'Anarchia, ho curato particolarmente questo aspetto, diciamo, quando cioè Malatesta nel corso della sua attività si è trovato obbligato ad affrontare il problema della, della violenza rivoluzionaria. Prego. 40, anche forse, ma cerca di aiutarmi a risparmiarmi da qualcuno. Ora, è chiaro che mi dovete dare un po' di credito, perché io opererò una, un taglio all'interno del corpus completo del pensiero malatestiano, sia per motivi logici di spazio e di tempo, sia per motivi di interesse. La mia è una lettura di comodo di Malatesta, quindi è facile criticare chi opera un discorso come questo mio. Naturalmente non possiamo, se volessimo avere un'idea complessiva del pensiero di Malatesta, tagliarne dei piccoli lacerti, metterli sul tavolo anatomico e dissettarli. È chiaro, e dissettarci sopra. È chiaro che però questa operazione può esserci utile, con tutti i limiti che essa comporta, se facciamo in modo che la parola di Malatesta risuoni qui dentro e che abbia un senso per noi, che scuota qualcosa dentro di noi, che ci faccia sentire vivi, non dei fantasmi di qualcosa che è passato e definitivamente morto nella, nell'anno di decesso del povero Malatesta. Ecco che cosa. In più, se io leggo un passo di Malatesta, non sono davanti ad un passo di un filosofo più o meno dell'azione, che ci sarebbe tanto da dire, ma non è il caso. Non siamo davanti a un passo di un filosofo e quindi per capirlo io sono costretto a ricorrere a, a quello che ci sta dietro, a tutta l'ipotesi teorica che sorregge quel passo. Noi ci dobbiamo mettere, leggendo questi passi di Malatesta, nella condizione di chi li lesse nel momento in cui furono scritti, di come risuonarono nella mente e nel cuore di quei compagni che li lessero all'epoca. Perché il lavoro del rivoluzionario, e quindi quello di Malatesta, è proprio questo di parlare ai compagni, contestualmente, in quel momento, perché in quel momento occorre per l'azione che quel problema venga chiarito ed approfondito, venga fatto emergere nelle sue complessità interne, e scuotendo anche l'ascoltatore, non soltanto indottrinandolo, pretendendo di indottrinarlo. Poi io, come disse, non solo non sono uno storico, ma non sono nemmeno uno storicista. Io non penso che dalla storia e quindi anche dall'opera di Malatesta possiamo aspettarci un insegnamento. L'aspetto profetico della storia non mi interessa. Io non credo che il corpus di scritti di Malatesta sia per noi un punto di riferimento oggi. Può essere un'occasione di lettura, un incidente di percorso, la sollecitazione ad una riflessione, ad un'attualizzazione, non un punto costante di riferimento. Noi non siamo né cristiani che leggiamo la Bibbia in un certo modo, né marxisti che leggiamo Marx in un certo modo. Almeno noi non siamo. Io penso che non siamo. Quindi consentitemi di leggere il primo pezzo del corpo, il primo pezzo di Malatesta. Scrive nel 21. Guardate che tutti questi scritti, la maggior parte, quasi tutti, sono intorno agli anni 20, quindi siamo piuttosto lontani dall'epoca di Rapasciolli. Gli anarchici, dice Malatesta, sono contro la violenza. Sono contro la violenza. E cosa nota? L'idea centrale dell'anarchismo è l'eliminazione della violenza dalla vita sociale. È l'organizzazione dei rapporti sociali fondati sulla libera volontà dei singoli, senza l'intervento del gendarme. Perciò siamo nemici del capitalismo che costringe, appoggiandosi sulla protezione dei gendarmi, i lavoratori a lasciarsi sfruttare dai possessori dei mezzi di produzione o anche a restare oziosi ed a patire la fame quando i padroni hanno interesse a sfruttarli. Perciò siamo nemici dello Stato che è l'organizzazione coercitiva, cioè violenta, della società. Ma se un galantuomo dice che egli crede che sia cosa stupida e barbara il ragionare a colpi di bastoni, che è ingiusto e malvagio obbligare uno a fare la volontà di un altro sotto la minaccia della rivoltella, è forse ragionevole dedurre che quel galantuomo intende farsi bastonare e sottomettersi alla volontà altrui senza ricorrere ai mezzi più estremi di difesa? La violenza è giustificabile solo quando è necessaria per difendere se stesso e gli altri contro la violenza. Dove cessa la necessità, comincia il diritto, il delitto. Stessa cosa. Lo schiavo è sempre in stato di legittima difesa e quindi la sua violenza contro il padrone, contro l'oppressore, è sempre moralmente giustificabile e deve essere regolata solo dal criterio dell'utilità e dell'economia, dello sforzo umano e delle sofferenze umane. Umanità Nuova, 28 agosto 1921. Lo schiavo è sempre in stato di legittima difesa, è sempre legittimato ad attaccare. Questo apre un discorso, questo avverbio apre un discorso immenso. Però Malatesta in questo testo almeno lo restringe, questo immenso discorso, e suggerisce, non impone, ma suggerisce che questa legittimazione etica all'azione d'attacco contro il nemico di classe sia regolata in un certo modo dai valori pratici dell'utilità. L'azione deve essere utile a che si cerchi di contribuisca ad alleviare la repressione, contribuisca ad alleviare il dominio, comunque faccia capire alla controparte nemica che non si è del tutto inermi. Malatesta, pur essendo un uomo molto informato, contrariamente a quanto pensano tanti dal punto di vista filosofico, non è un seguace delle teorie economicistiche. Non lo è perché è un volontarista, perché, come vedremo dopo, dà molto spazio al sentimento umano, al cuore, molto, certe volte molto di meno al cervello, alla teoria. L'economicismo significa quella tesi dovuta a Mach che diceva che nella realtà la natura segue sempre la strada più breve e che quindi per fare una cosa occorre, poi estrapolando questa tesi filosofico-scientifica, e portandola nella realtà sociale, sarebbe che qualunque azione dovrebbe seguire la strada più breve, ottenere il risultato maggiore con il minimo sforzo. Non è nell'ipotesi di Malatesta. Allora perché lui suggerisce l'utilità? Suggerisce l'utilità in questo caso per dare ovviamente una riduzione a quell'avverbio di cui parlavamo prima, a quel sempre che lascerebbe, come dire, aperta una porta sostanzialmente senza limiti. È chiaro d'altro canto che Malatesta si rende conto che non ci può essere una garanzia a priori. Se uno mette mano ad agire, decide di farla pagare a chi continuamente ci fa soffrire, può valutare tutti gli aspetti di questa sua decisione, aspetti strategici, tattici, pratici, tecnici, tutte le conseguenze. Non può però garantire in assoluto che da questa sua azione non venga fuori un imprevedibile movimento caotico che può avere conseguenze, quali ad esempio l'aumento della sofferenza, l'aumento della repressione, esattamente il contrario quindi di quello che invece si presupponeva potesse venire fuori dall'ipotesi di partenza. Se noi vediamo spesse volte tante realtà di attacco che ci passano sotto gli occhi, ci accorgiamo che partite da buone intenzioni arrivano a conclusioni discutibili. Tant'è vero che hanno bisogno di una spiegazione. Cioè dire quello che comunemente certe volte passa sotto il nome di comunicato, comunicato esplicativo. Possiamo essere sicuri che più si ha necessità di una spiegazione e meno l'azione di attacco contro il nemico è andata a buon fine. Ha avuto, cioè dire, questa azione dei problemi. Ma la testa questo problema se lo pone, ed è in questo senso che dovremmo quindi leggere le frasi riguardanti l'economia e l'utilità dello sforzo umano diretto ad attaccare. Il secondo passo sarebbe questo. Vi sono certamente altri uomini, altri partiti, altre scuole, dice Malatesta, tanto sicuramente devoti al bene generale quanto possono esserlo i migliori tra noi. Ma ciò che distingue gli anarchici da tutti gli altri è, si è appunto l'orrore della violenza, il desiderio ed il proposito di eliminare la violenza, cioè la forza materiale dalle competenze tra gli uomini. Si potrebbe dire perciò che l'idea specifica che distingue gli anarchici è l'abolizione del gendarme, l'esclusione dei fattori sociali della regola imposta mediante la forza brutale, legale o illegale che sia. Ma allora si potrà domandare perché nella lotta attuale contro le istituzioni politico-sociali che giudicano oppressive, gli anarchici hanno praticano quando possono l'uso dei mezzi violenti che pur sono in contraddizione con i fini loro? E questo al punto che in certi momenti molti avversari in buona fede hanno creduto, e tutti quelli in malafede hanno finto di credere, che il carattere specifico dell'anarchismo fosse proprio la violenza. La domanda può essere imbarazzante, ma vi si può rispondere in poche parole. Gli è che perché due vivono in pace bisogna che tutte e due vogliano la pace, che se uno dei due si ostina a volere con la forza obbligare l'altro a lavorare per lui e a servirlo, l'altro, se vuol conservare dignità di uomo e non essere ridotto alla più abietta schiavitù, malgrado tutto il suo amore per la pace e il buon accordo, sarà obbligato a resistere alla forza con mezzi adeguati. Qua bisogna, secondo me, ovviamente queste sono letture che possono essere fatte in tanti modi, io lo faccio a modo mio. Qua bisognerebbe, secondo me, sottolineare il concetto di dignità, molto importante, perché in fondo che cosa ci spinge a prendere coscienza della nostra condizione di sfruttati e di oppressi? Ci spinge la sofferenza fisica, la fame, e molto, molto più raramente, ormai almeno noi non di sicuro. Certamente queste sono molle molto potenti che spingono strati sociali e condizioni sociali più arretrate, le quali trovano sbocco in maniere che difficilmente si possono riassumere all'interno del concetto di coscienza rivoluzionaria anarchica. Ma gli anarchici coscienti, presa appunto questa interiorizzata, questa sorta di malattia profonda che è la coscienza rivoluzionaria, a che cosa fanno appello se non alla propria dignità ferita, alla propria dignità di uomini? Che cosa può mai spingere un anarchico ad attaccare il nemico che lo offende, ben al di là delle condizioni magari di privilegio, di compartecipazione in cui ci hanno messo e che tolleriamo perché in fondo non ne possiamo fare a meno? La nuova repressione è diversa di quella del passato, ma la testa dirà che non c'è bisogno che si arrivi alla rivoltellate per insorgere, per attaccare. Ma qua non si tratta di rivoltellate, la repressione nuova è ben diversa. Ci coinvolge, ci porta dentro, ci porta nel consenso, ci fa condividere una realtà sociale che dovremmo rigettare, ma che non possiamo, perché mille legami, mille aspetti, da quello del lavoro, principalmente da quello del lavoro, alla famiglia, alla interpretazione etica della nostra vita, del mondo in cui viviamo, ci obbligano ad accettare. Reagire contro questa condizione è sempre più difficile, perché sempre più lontana e remota, sempre più imperscrutabile diventa questa valutazione etica di noi stessi, della nostra vita, della nostra prospettiva di vita. E chi si muove, chi attacca o chi semplicemente manifesta il proprio dissenso viene immediatamente collocato all'interno di un fascio di luce repressiva, ben precisa, sempre di più. Pensate al concetto di terrorismo che è stato elaborato dagli ultimi 30 anni, 25 anni, e come si è velocemente sviluppato in forme sempre più dettagliate, sempre più fumose, sempre più lontane dall'oggettiva significanza di questa parola, di questo concetto, come è andato crescendo. Pensate che mi risulta da che alcuni ragazzi, non so quale liceo, hanno scritto una frase sulla lavagna riguardante la questione di Nassiriya e sono stati immediatamente schedati, derrocati dai carabinieri e così via. Pensate a quale punto assurdo arriva la repressione. Compagni che sono stati arrestati recentemente, come i compagni citati prima, Don Polino, Leonardo e Leonardi, sono stati arrestati prima, in questi pochi giorni fa, mi pare, e i compagni che sono sotto processo, che siamo, perché anch'io sono, siamo al terzo grado adesso in Cassazione, compagni che sono stati condannati con ergastoli, con anni, non cito i miei 6 anni di condanna che sarebbero una banalità di fronte a condanne come 15-16 anni e così via. Vediamo che Franco si sistemi prima, definitivamente. Tutto bene? Beh. Ecco, compagni che si trovano quindi nella condizione di essere messi sotto questi riflettori e che non appena si muovono immediatamente fanno scattare aspetti preventivi della repressione e aspetti concretizzati successivi. Pensate a quanti di noi trovano continuamente dentro casa, nelle macchine, le spie elettroniche della polizia. Quanti di noi sono costretti continuamente a smontare questi oggetti e poi se li ritrovano un'altra volta? A quanti di noi in questo momento ci hanno in corso processi, e più che processi, procedure di indagini che si vanno accumulando nelle varie procure? Perché? Perché non perché semplicemente hanno realizzato chissà quale processo rivoluzionario, ma perché sono, o siamo, consentitemi l'immodestia, siamo probabilmente portatori di un concetto rivoluzionario che disturba probabilmente, io penso, per la sua potenzialità, non per la sua efficacia operativa, per la sua potenzialità in quanto lascerebbe intendere che siamo in grado di poter suggerire quell'auto-organizzazione delle masse rivoluzionarie, che è la cosa in fondo, da un punto di vista insurrezionale, che disturba sicuramente i sogni del potere. Ma torniamo al nostro amato Malatesta. Nel terzo pezzo che leggiamo, lui scrive: la lotta contro il governo si risolve, in ultima analisi, Alfredo Bonanno, silenzio. La lotta contro il governo si risolve in ultima analisi in lotta fisica, materiale. Il governo fa la legge, esso dunque deve avere una forza materiale, esercito, polizia, per imporre la legge, perché altrimenti non vi ubbidirebbe che chi vuole, ed essa non sarebbe più legge, ma una semplice proposta che ciascuno è libero di accettare e di respingere. Ed i governi questa forza l'hanno e se ne servono per potere con leggi fortificare il loro dominio e fare gli interessi delle classi privilegiate, opprimendo e sfruttando i lavoratori. Limite all'oppressione del governo è la forza che il popolo si mostra capace di opporgli. Vi può essere conflitto aperto o latente, ma conflitto v'è sempre, perché il governo non si arresta innanzi al malcontento ed alla resistenza popolare, se non quando sente il pericolo dell'insurrezione. Quando il popolo sottostato cimenta la legge o la protesta è debole e platonica, il governo fa i compiti suoi senza curarsi dei bisogni popolari. Quando la protesta diventa viva, insistente e minacciosa, il governo, secondo che è più o meno illuminato, cede o reprime, ma sempre si arriva all'insurrezione. perché se il governo non cede, il popolo finisce con ribellarsi, e se il governo cede, il popolo acquista fiducia in sé e pretende sempre di più, fino a che l'incompatibilità tra la libertà e l'autorità diventa evidente e scoppia il conflitto violento. È necessario dunque prepararsi moralmente e materialmente perché allo scoppio della lotta violenta la vittoria resti al popolo. Questo è un passo del programma anarchico. La redazione definitiva, almeno quel che mi risulta, dovrebbe essere del 1920. Io non sono d'accordo con la sostanza del discorso di Malatesta, perché nella sostanza c'è un meccanismo che non mi piace. C'è il meccanismo inevitabile, come se qualcosa all'interno del processo di contrapposizione fosse meccanicamente destinato ad evolversi verso lo scontro finale. Io non lo penso così, però mi piace nel concetto di Malatesta che, malgrado la persistenza, come dire, il residuo archeologico, che per i suoi tempi poi tanto non era, di un meccanismo che ricorda probabilmente quelle vecchie strutture marxiste hegeliane del movimento per contraddizioni, c'è un'altra cosa invece, oltre, più importante, c'è il fatto volontariamente determinato, volontariamente messo sotto un'attenta visione ed osservazione della preparazione a questo momento. Guardate che, contrariamente a quanto ci sembra, perché tutti, anche io, tutti mi sembra che siano convinti, anch'io sono dentro certi limiti convinto, di vivere un momento di tragica stasi. Ma io penso che sotto queste chete acque dell'acquiescenza si sommuove sempre qualche cosa che si evolve non secondo il meccanismo citato da Malatesta, ma si evolve in una maniera caotica, imprevedibile, e che questo qualcosa può prendere in realtà sia pure ristrette, ma non per questo anatomicamente separate, la possibilità dell'insurrezione popolare. Qua ci pensate a piccoli cenni, come può essere ad esempio il movimento incredibilmente significativo che c'è stato recentemente in Basilicata, e anche altri casi, lo sciopero selvaggio di Milano. Cioè, ci sono piccole cose, ma nello stesso tempo significative. Quanto può essere fragile questa mostruosa costruzione governativa statale che ci opprime? Quando può essere fragile? Io mi ricordo, scusate se faccio sempre questi vecchi esempi, ma sono vecchio, dovete avere un poco di pazienza anche con me. Mi ricordo che quando sono stato prelevato dalla polizia nel corso delle lotte di Comiso, sono stato portato davanti al prefetto di Ragusa. E questo disse: beh, insomma, ragazzi, che volete, all'epoca eravamo ragazzi, che volete fare con la base militare? Ce la volete distruggere veramente? Disse: veramente sì, noi vorremmo entrare dentro e sfasciare tutte cose. Se venite con la gente potete farlo, ma se siete da soli non ve lo consiglio. Uomo di governo, uomo di apparato, il prefetto mi stava dando un'indicazione inevitabilmente chiara, inevitabilmente necessaria per lo Stato, per il potere. Cioè, non puoi affrontare, i tempi del 60 sono lontani, del 61 sono lontani, no? Non puoi affrontare a colpi di mitragliatrice il popolo in rivolta, oppure semplicemente che sta facendo una manifestazione, il popolo. Puoi affrontare a manganellate e anche a colpi di rivoltella sporadici i compagni col passa montagna o col fazzoletto sugli occhi, questo sì, anzi è uno sport, visto che noi abbiamo un'ottima frequentazione di polizie, ogni tanto ci fanno qualche perquisizione, qualche cosa, entrano ed escono magari. Mi ricordo che dopo i fatti di Genova un poliziotto che mi faceva la perquisizione a casa a Trieste mi dice: ah, ma quando ci siamo divertiti a Genova. E certo, anche per loro è uno sport come andare a far casino allo stadio, ma non quando c'è la gente, quando ci sono i bambini. Pensate un po' alle connessioni mediatiche, semplicemente questo, che ci sono a livello mondiale per quanto riguarda le azioni repressive, come vengono sottoposte all'attenta visione dell'opinione pubblica. Pensate agli effetti che avrebbe un'azione del genere repressiva a livello di massa sulla formazione dell'opinione, perché noi siamo retti, governati attraverso la formazione dell'opinione e quindi attraverso la gestione delle informazioni. Pensate alle conseguenze di questo fatto, cosa che da Berlusconi in giù, qua poveretto Berlusconi capisce nulla, però i suoi collaboratori in giù si rendono perfettamente conto. Quindi secondo me prepararsi alla insurrezione è sempre una cosa possibile. Studiare i metodi concretamente ci suggerisce Malatesta. Questo non vuol dire andare sulle barricate, oppure dice vabbè, facciamola noi questa insurrezione. Non è questo, non è un'insurrezione quella, è una manifestazione di desiderio, una manifestazione di odio, di rabbia, di quello che volete, del vaso pieno che trabocca, tutto questo, ma è una cosa limitata. La preparazione è di ordine morale, diceva Malatesta, e concreta. Darsi gli strumenti di ragionamento e di azione, questo ci suggerisce Malatesta. Andiamo al quarto pezzo. Questa rivoluzione, dice Malatesta nel 1920, deve essere necessariamente violenta. Lui si riferisce a un discorso precedente in cui parlava di una rivoluzione, quindi dice questa rivoluzione deve essere necessariamente violenta, quantunque la violenza sia per se stessa un male. Deve essere violenta perché sarebbe una follia sperare che i privilegiati riconoscessero il danno e l'ingiustizia dei loro privilegi e si decidessero a rinunciarvi volontariamente. Deve essere violenta perché la transitoria violenza rivoluzionaria è il solo mezzo per mettere fine alla maggiore e perpetua violenza che tiene schiava la grande massa degli uomini. Anche qua devo confessare che c'è un concetto che non mi trovo d'accordo, il concetto di transitorietà. Qua siamo all'interno proprio del corpo, secondo me, almeno penso gli specialisti di Malatesta mi bacchetteranno, però io penso che siamo all'interno del corpo. Per Malatesta l'idea della transitorietà è importante. Il processo rivoluzionario è un processo che si pone in una condizione di passaggio fra la vecchia società dell'oppressione e la nuova società futura della libertà. Malgrado questo meccanicismo di ragionamento che Malatesta preleva dai laboratori in circolazione all'epoca, ovviamente, e teniamo presente che qui dentro c'è anche la conoscenza scientifico-filosofica di Malatesta dell'epoca, c'è il meccanicismo scientifico dell'Ottocento, ci stanno tante cose che ovviamente è superfluo discutere adesso, che sono però importanti per capire perché Malatesta parla di transitorietà. E non è la transitorietà della dittatura del proletariato, badiamo bene, non si tratta affatto di condizioni in cui gli anarchici prendono e gestiscono il potere per una fase sia pure transitoria. Ovviamente non possiamo addebitare a Malatesta un concetto così spurio e denso di significati tragici, ma lui dice un concetto di transitorietà. Però oggi sappiamo che questo concetto di transitorietà perdura continuamente nella società. Quindi la violenza non ci garantisce nulla. Non è che il concetto di intervento rivoluzionario, perché ha le sue caratteristiche di violenza, riesce veramente a risolvere il problema della gestione oppressiva della società e trasformare questa gestione in qualcosa di autonomamente libero ed uguale. Questo non è una garanzia, non abbiamo, secondo me almeno, nulla di questo. Difatti la molla che fa scattare la partecipazione di ognuno di noi, il mettere in gioco la propria vita, non è che noi ci siamo anarchici, ragazzi, intendiamoci chiaramente, non siamo anarchici come potremmo essere monarchici o come potremmo essere berlusconiani. L'anarchico è una cosa diversa, non è un'opinione, ma è un radicale convincimento di differenza. Noi siamo diversi, diversi perché abbiamo preso coscienza, perché dentro di noi, dentro il nostro cuore, battono sentimenti diversi, le nostre analisi ricevono una luce attraverso questo battere del cuore, questo sincronismo continuo che ci dice: guarda che tu sei nella società sbagliata, e che se non fai qualcosa perché questa società diventi sia pure in parte qualche faccenda diversa, nebulosamente diversa, che noi adesso non riusciamo nemmeno a dettagliare o a concepire, sia pure in grandi linee, non fai qualcosa in questa direzione, sei una merda. E questo, badate, ve lo dite ognuno di voi, come me lo dico io continuamente. Ed è questa la molla, la dignità offesa, che ci spinge ad agire. Anche Malatesta lo sapeva perfettamente questo. Io non so se è giusto o sbagliato, come viene detto ancora oggi. Io sono convinto che è sbagliato. Dici, ma di che cosa stiamo parlando? Del fatto che il processo rivoluzionario si riassuma nella fase di passaggio dell'espropriazione dei mezzi di produzione. Io non so se sia questa la fase significativa della rivoluzione. Non lo so, perché per quello che posso capire d'economia, i mezzi di produzione, per come si sono trasformati nella gestione capitalista in cui viviamo tutti immersi, ben al di là del naso, sono qualcosa di irrecuperabilmente perduta per noi. Il futuro non può utilizzare questi mezzi di produzione. Questo è il mio convincimento, ed è discorso ovviamente che meriterebbe ben altro approfondimento. Il capitale ha trasformato, il neocapitalismo si è talmente trasformato, se non altro a partire dagli anni Ottanta, con l'intervento informatico, se non altro, tale da non poter essere utilizzato, e che quindi l'unica soluzione, secondo me, è quello di cominciare a distruggerlo. Però questa ovviamente è la mia opinione, che vale quanto il due di coppe, quando la briscola è a oro. Parliamo del quinto pezzo. Anche noi abbiamo l'animo amareggiato, dice Malatesta, da questa necessità di lotta violenta. Noi che predichiamo l'amore e che combattiamo per raggiungere uno stato sociale in cui la concordia e l'amore siano possibili tra gli uomini, soffriamo più di tutti della necessità in cui siamo posti di difenderci con la violenza contro la violenza delle classi dominanti. Ma rinunciare alla violenza liberatrice, quando essa resta l'unico mezzo che possa metter fine alle sofferenze diuturne della grande massa degli uomini ed alle stragi immani che funestano l'umanità, sarebbe farsi responsabili degli odi che si lamentano e dei mali che dall'odio derivano, scrive nel 1920 su Umanità Nuova. Corresponsabili. Ecco, balenare un altro concetto portante, secondo me, portante non solo per Malatesta e i suoi tempi, ma portante per noi oggi, il concetto di responsabilità, perché ognuno è responsabile delle proprie azioni. Responsabilità, che vuol dire? Che io indaghi il comportamento del compagno, lo veda insipiente e lo bacchetti, e forse questo è il concetto di responsabilità. È questo che io passi invece la mia vita a considerare cosa fanno gli altri, e non invece a valutare che cosa io nella mia miseria quotidiana sto facendo. Forse questo è il concetto di responsabilità, e non di certo, amici miei, perché ognuno è responsabile per quello che fa, per se stesso. Per cui, se un compagno ritiene che il suo astensionismo elettorale sia la effettiva ed efficace azione contro il nemico di classe, solo lui può valutare la fondatezza di questa sua valutazione, di questa sua opinione. Non può essere che qualcuno gli dica: no, guarda, tu sei circoscritto, sei limitato, guarda che l'astensionismo elettorale è soltanto una piccola manifestazione di dissenso, non è bastevole perché si possa parlare di azione rivoluzionaria. Questo concetto, che sembra peregrino, è invece estremamente importante, perché è estremamente diffuso all'interno del movimento il fatto di guardare nel piatto del commensale che ti sta vicino. Io sono stato tante volte accusato di avere inveito a destra e a manca con questo e con quello, ma se qualcuno che si è tante volte risentito spesso delle mie reprimende le avesse lette per quello che oggettivamente sono, avrebbe anche capito che contenevano una parte iniziale in cui era sempre costantemente detto che è estremamente importante il lavoro fatto da tutti i compagni nei limiti della propria decisione di agire, anche il lavoro di informazione, di intervento, anche qualsiasi lavoro, e che l'unica cosa che non mi trovava d'accordo era che questo lavoro, per avere migliore significatività esso stesso, per essere messo in una luce di maggiore significatività, avesse bisogno di prendere le distanze. Guardate che Malatesta dirà la stessa cosa tra poco, avesse bisogno di tenersi a distanza, di dire noi siamo questo ma non siamo quello. Perché mai? Era questo quello che ci scatenava. Spesse volte, ovviamente, in maniera inconsulta, perché i modi dell'animo a volte non sono controllabili fino in fondo. Siamo uomini, non siamo macchine. Ognuno è libero di fare il lavoro come crede, ma non è, secondo me, libero di poter indicare quello che fa il lavoro diverso dal mio e dire no, quel tipo di lavoro non si fa. Perché spesse volte con queste innocenti indicazioni si suggerisce al carabiniere quale vicolo prendere per arrivare prima nella strada maestra. Dunque, un altro pezzo di Malatesta che è del 1923. Noi siamo per principio contro la violenza e perciò vorremmo che la lotta sociale, finché lotta vi sarà, si umanizzasse il più che sia possibile. Ma ciò non significa punto che noi vorremmo che essa lotta sia meno energica e meno radicale, che anzi noi riteniamo che le mezze misure riescono in conclusione a prolungare indefinitivamente la lotta, a renderla sterile ed a produrre insomma una più grande quantità di violenza che si vorrebbe evitare. Né significa che noi limitiamo il diritto di difesa alla resistenza contro l'attentato materiale ed imminente. Per noi l'oppresso si trova sempre, torna sempre stavebbio, si trova sempre in stato di legittima difesa ed ha sempre il diritto pieno di ribellarsi senza aspettare che lo si prenda a fucilate. E sappiamo benissimo che spesso l'attacco è il più valido mezzo di difesa, ma qui vi è di mezzo una questione di sentimento e per me il sentimento conta più di tutti i ragionamenti, dice Malatesta. E questo è, si commenta da sé, quante tesi vengono fatte perfettamente coerenti nella loro espressione e poi piombano davanti, cadono giù davanti al fatto che chi li ha sviluppati nella propria vita ovviamente non ha quella partecipazione totale, quel coinvolgimento del cuore che invece rende significativa quella tesi, gli apporta la luce della umanità che dovrebbe essere presente in ogni sviluppo teorico, se non vogliamo che diventi una semplice esercitazione universitaria. In fondo, per agire c'è da superare una soglia, parliamoci chiaro, una cosa che io fisicamente sento. Noi abbiamo delle soglie che ci circondano. Se io allungo la mano per toccare il petto nudo di mia sorella, avverto una cosa che non funziona ed è una soglia. Se io allungo la mano per impadronirmi di un oggetto che si trova sul banco di un orefice, se io entro, come mi è accaduto personalmente, io sono stato condannato per rapina a mano armata, quindi so perfettamente che vuol dire, se io entro in una gioielleria con una rivoltella nel mano, devo superare una soglia che non è la soglia del negozio del gioielliere, ma la soglia psicologica, una cosa che mi sta dentro. Cioè, devo superare una frattura morale. In fondo noi abbiamo introiettato dentro di noi, se io mi siedo al cinema nella mia sedia e accanto a me c'è un'altra persona, accidentalmente lo tocco con il braccio, gli chiedo subito scusa, perché c'è una differenza, una barriera che abbiamo introiettato da tantissimi centinaia di anni, che mi dice che io non posso toccare il corpo sconosciuto di chi mi sta vicino. E che se lo faccio devo ovviamente chiedere scusa, perché ho superato una soglia involontariamente e così via. Queste soglie che ci separano ci tengono lontani anche dal concretizzare realmente quello che affermiamo, di realizzare nella nostra intima vita quotidiana quello di cui ci diciamo convinti. E quindi se noi questa soglia non la superiamo, io non sto facendo un discorso di incitamento al furto, alla rapina all'incesto, non sto facendo questo, sto dicendo, ho fatto degli esempi, badate bene, perché quella soglia si realizza in piccole cose minute della nostra quotidianità, è comunque presente in ognuno di noi, e sto riferendomi alla soglia specifica che ci separa fra quello che, da quello che diciamo, con quello che effettivamente siamo, da quello di cui noi siamo convinti, da quello che in effetti siamo, dal rapporto di... dal rapporto fra l'essere e il volere essere. Guardate che questo rapporto è tragicamente... faceva morire da ridere Hegel questo rapporto. Perché uno è quello che è, banalità tautologica che è di grande difficoltà a capirsi. Noi siamo quello che siamo, e il volere essere qualcosa di diverso ci frega continuamente. Noi non dovremmo essere qualcosa di diverso da quello che siamo. Io non vi sto dicendo, non vi sto sollecitando a prendere coscienza di diventare finalmente anarchici, perché voi siete anarchici. Il fatto è uno, che lo dovete diventare. Io sono anarchico, ma sono anarchico perché lo divento anarchico, perché mi sforzo continuamente di diventare anarchico, non perché lo sono una volta per tutti e finivo e basta, come se qualcuno un giorno mi avesse dato la patente d'anarchismo, che poi anche la patente me l'hanno pure levato. Stiamo per finire, non vi prendete paura. Dunque, un pezzettino di malatesta del 1924. Gli anarchici non hanno ipocrisia, la forza bisogna respingerla con la forza. Oggi contro le oppressioni di oggi, domani contro le oppressioni che potrebbero tentare di sostituire quelle di oggi. E questo è veramente importante, perché significa che la lotta violenta non si risolve con la rivoluzione. La lotta, gli anarchici non sono sicuri di andare verso una società liberata, in cui finalmente siamo tutti fratelli e in cui il senso stesso della parola anarchismo o anarchia verrebbe a mancare, perché è una società libera in cui siamo tutti liberi, che senso ci ha di definirsi anarchici? No, e perché invece io penso che avremo sempre bisogno di dirci e di agire da anarchici, perché quella società cosiddetta liberata avrà sempre bisogno degli anarchici, perché deve essere sempre spinta verso un miglioramento che autonomamente da solo invece non sarebbe possibile realizzare. Un altro, stiamo arrivando, riguardo gli ultimi, credo gli ultimi due pezzi. Dunque, parlando dei fatti del Diana, tutti penso sapranno la questione della bomba che gli anarchici misero a fianco del teatro del Diana, causando però il crollo di un muro e la morte di diverse decine di persone durante nel 21 e durante la detenzione di Malatesta a San Vittorio. A proposito dei fatti di Diana, io, dice Malatesta, dissi che quegli assassini sono anche dei santi e degli eroi. E contro questa affermazione protestano quei miei amici, in omaggio ai quali, in omaggio a quelli che essi chiamano gli eroi e i santi veri, che a quanto pare non sbagliano mai. Io non posso che confermare quello che dissi, basta con le sottigliezze, l'importante è di non confondere il fatto con le intenzioni. e nel condannare il fatto cattivo non trascurare di rendere giustizia alle buone intenzioni. E questo non solo per rispetto alla verità, non solo per pietà umana, ma anche per ragioni di propaganda, per effetti pratici che il nostro giudizio può produrre. Vi sono, ci saranno sempre, finché dureranno le condizioni presenti e l'ambiente di violenza in cui viviamo, degli uomini generosi, ribelli, super sensibili, ma privi di riflessione sufficiente, che in date circostanze sono soggetti a lasciarsi trascinare dalla passione e a colpire alla cieca. Se noi non riconosciamo altamente la bontà delle loro intenzioni, se non distinguiamo l'errore dalla cattiveria, noi perdiamo ogni presa morale su di loro e li abbandoniamo ai loro ciechi impulsi. Se invece rendiamo omaggio alla loro bontà, al loro coraggio, al loro spirito di sacrificio, noi possiamo per la via del cuore arrivare alla loro intelligenza e fare in modo che quei tesori di energia che sono in loro siano adoperati in pro della causa in modo intelligente, buono ed utile. Umanità Nova del 1921. Era un argomento delicato, pensate che anche la compagna di Malatesta era stata inquisita su questo avvenimento, e che quindi Malatesta manifesta un grande equilibrio senza svendere nessuno, come anche e senza inveire contro nessuno. Un uomo isolato, io ho visto, essendo stato carcerato anche a San Vittorio, ho visto queste celle dove, perché fanno passare i detenuti una specie di corvée iniziatica per terrorizzarli, dalla vecchia parte del carcere che adesso è soltanto un archivio, perché ci sono queste grandi scaffalature con in cima tutti questi pezzi di carta, e ci sono queste celle, sono bassissime, sono delle vere celle che l'Inquisizione italiana siciliana chiamava dammusi, più o meno alto 1,5 metri. E queste celle era prigioniero, quindi in una cella di questa, e riusciva ad avere l'equilibrio intellettuale e morale per non saltar su con una condanna e una presa di distanza da quegli avvenimenti certamente delicati e dannosi. Pensate ad esempio agli equivoci che sono stati determinati in epoca lontana da noi, ma che comunque hanno significato fino ai nostri giorni, dall'azione di Gianfranco Bertoli contro la questura di Milano nel 1973, e nel corso dell'inaugurazione di un monumento al commissario Calabresi, l'uccisore di Pinelli, e questo compagno Gianfranco Bertoli getta una bomba dentro l'atrio della questura, la bomba viene fatta rimbalzare dal calcio di un carabiniere che si trovava lì dentro e uccide 4 o 5 persone e ne ferisce una trentina. E allora si scatenò un dibattito ferocissimo, e io stesso intervenni non condannando l'azione, ma non condannando Bertoli, ma soltanto dicendo che in effetti l'azione andava, era al di sopra per quel momento delle mie valutazioni, ma che quel che lui diceva di sé in una sorta di autobiografia pubblicata da un settimanale, peraltro anche fascista, su decisione del suo avvocato, era il settimanale Gente, quel che lui diceva di sé in una sorta di autobiografia era incompatibile, inconciliabile con il concetto di anarcho-costirneriano. Questo allora mi bastò, e ne faccio qua pubblicamente penitenza, per giudicare l'azione di un compagno e per non cercare di capirla al di là, cosa che invece Malatesta ha molta più capacità ed intelligenza rivoluzionaria di me. E devo anche dire che lui conosceva Mariani, Agucini e gli altri, io non conoscevo Bertoli. E quindi forse questa può essere una scusante, ma non lo è fino in fondo. Successivamente, avendolo conosciuto per lettera e avendo intrattenuto con lui un carteggio di quasi 2 anni, mi sono reso conto di trovarmi davanti a una persona debole che mi ha dato il grande dono di capire che non è soltanto la forza che abbiamo bisogno per insorgere ed attaccare anche singolarmente il potere, ma che anche un debole può farlo. Ora, se mi consentite, leggiamo l'ultimo pezzo di Malatesta e abbiamo finito. Questo pezzo è importante perché costituisce una risposta che Malatesta dà ad un articolo pubblicato sull'agitazione, se non sbaglio, sì, sullo stesso giornale, ad un articolo pubblicato da Fabbri contro questo articolo di Fabbri. Era diretto con una critica abbastanza feroce, anzi molto feroce, all'azione dell'anarchico Czolgosz, sì. Mi hanno detto che si pronuncia così, poi non lo so, non assumo. Czolgosz, che aveva sparato e ammazzato il presidente degli Stati Uniti, McKinley. Allora, Malatesta dice questo. Nel 1901, McKinley, il capo dell'oligarchia, io mi sono dilettato, scusate, mi interrompo, sono dilettato a sostituire nella mia mente, al posto di McKinley, un altro nome, fate voi. McKinley, il capo dell'oligarchia nordamericana, lo strumento e difensore dei grandi capitalisti, il traditore dei cubani e dei filippini, l'uomo che autorizzò il massacro degli scioperai di Hazleton, le torture dei minatori dell'Idaho e le mille infamie che ogni giorno si commettono contro i lavoratori nella Repubblica Potello, colui che incarnava la politica militarista, conquistatrice, imperialista in cui si è lanciata la grassa borghesia americana, è caduto vittima della rivolta della donna. Di che volete che noi ci affliggiamo? Quando non fosse per la sorte riservata al generoso che opportunamente o inopportunamente, con buona parte o cattiva, con buona o cattiva tattica, ha dato se stesso in olocausto alla causa dell'uguaglianza e della libertà. Lo ripetiamo in questa, come in tutte le occorrenze analoghe, poiché la violenza ci circonda da tutte le parti, noi continuiamo a lottare serenamente perché finisca questa orribile necessità di dover rispondere con la violenza alla violenza, pur augurandoci che venga presto il giorno in cui gli antagonismi di interesse e di passioni tra gli uomini si potranno risolvere con mezzi umani e civili. Serbiamo le nostre lacrime e i nostri fiori per altre vittime che non siano questi uomini, i quali mettiamo alla testa delle classi sfruttatrici ed opprimenti. Assumiamo la responsabilità e affrontiamo i rischi della loro assumono la responsabilità ed affrontano i rischi della loro posizione. Eppure si sono trovati degli anarchici che hanno creduto utile e bello l'insultare all'oppresso che si ribella, senza avere una parola di riprovazione per l'oppressore che ha pagato il fio dei delitti che aveva commesso o lasciato commettere. È aberrazione. Teniamo presente che lui è aberrazione, sta parlando di Fabbri, che è un amico suo, e sta pubblicando sul giornale di Fabbri, quindi sul giornale non so se è di Fabbri, comunque dove era uscita la reprimenda di Fabbri. È aberrazione, è desio malsano di avere l'approvazione degli avversari o malaccorta abilità, tra virgolette, che vorrebbe conquistare la libertà di propagare le proprie idee rinunciando spontaneamente al diritto di esprimere il vero e profondo sentimento dell'animo, anzi falsificando questo sentimento fingendosi diversi da quello che si è. Lo faccio con ringraziamento, ma non posso esimermi da manifestare il dolore e l'indignazione che hanno prodotto in me e in quanti compagni ho avuto occasione di vedere in questi giorni le inconsulte parole che l'agitazione ha dedicato all'attentato di Buffalo. Czolgosz è un incosciente, ma lo conoscono essi? Il suo atto è un reato comune che non ha nessuno dei caratteri indispensabili perché, tra virgolette, queste sono le parole di Fabbri, indispensabili perché un atto consimile possa ritenersi politico. Credo che nessun pubblico accusatore, nessun regio o repubblicano oserebbe sostenere altrettanto. Infatti, per forse qualche motivo per giudicare col Czolgosz animato da interessi o rancori personali, già è improprio parlare di delitto in casi simili. Il codice lo fa, ma il codice è fatto contro di noi, contro gli oppressi, e non può servire di criterio ai nostri giudizi. Questi sono atti di guerra, e se la guerra è delitto, lo è per chi in essa sta dalla parte dell'ingiustizia e dell'oppressore, dell'oppressione. Possono essere, sono delinquenti gli inglesi invasori del Transvaal, non lo sono i boeri. Vabbè, sorvoliamo che è un poco più lungo e andiamo al passo che secondo me è più importante. Che l'unità combattente, tenete con questo concetto, dice Malatesta, che l'unità combattente sia una collettività o un individuo solo non può cambiare nulla all'aspetto morale della questione. Una insurrezione armata fatta inopportunamente può produrre un danno reale o apparente alla guerra sociale che noi combattiamo, come lo fa un attentato individuale che urta il sentimento popolare. Ma se l'insurrezione è fatta per conquistare la libertà, nessun anarchico le negherà la sua simpatia. Nessuno, soprattutto, oserà negare il carattere di combattenti politico-sociale agli insorti vinti. Perché dovrebbe essere diversamente se l'insorto è uno solo? E finisce questo articolo piuttosto lungo di Malatesta. È stolto per salvarsi la vita distruggere le ragioni del vivere. A che possono servire le organizzazioni rivoluzionarie se si lascia morire lo spirito rivoluzionario? A che la libertà di propaganda se non si propaga più quel che si pensa? Non trovo le parole adeguate per concludere dopo la lettura di questi passi di Malatesta. Io ci vedo una cosa, ci vedo una critica radicale del fatto che noi non possiamo pretendere di condividere qualcosa con il nostro nemico. Che noi viviamo in una realtà che condividiamo quasi tutto con il nostro nemico. Condividiamo tanto e così profondamente che parliamo la stessa lingua. Il linguaggio ci accorpa tutti e ci fa simile al nemico che ci opprime, perché siamo obbligati a ragionare allo stesso modo. Cioè dire, quando noi cerchiamo nel giornale che parla certe volte di quello che facciamo, ma spesse volte di quello che si immagina che noi siamo, e in questo cerchiamo di trovare una certa contenuto concreto, una significatività, quale essa sia, siamo su una strada sbagliata, perché il nemico non può parlare di noi in una maniera che non sia a lui congeniale, a lui significativa. Cioè, in effetti, dovremmo cominciare, secondo me, a renderci conto che abbiamo bisogno di una logica diversa. Non si può essere rivoluzionari e parlare e ragionare come fa il carabiniere. La parola ha un limite. Non è vero che noi, attraverso la parola, riusciamo a dire quello che pensiamo, ma spesso attraverso la parola riusciamo e siamo capaci di nascondere veramente nel modo più occulto possibile quello che pensiamo. Non è una frase mia, è una frase di Nietzsche, però quest'uomo è riuscito a darci un'indicazione importante su questo punto così delicato, che apre le soglie del futuro veramente. Il futuro sarà sempre di più riservato ad un contrasto di gestione della significatività, non solo dei fatti e quindi delle informazioni, ma anche dei concetti di quello che riusciamo a capire della realtà. E finché pretendiamo di utilizzare la parola, finché pretendiamo che la parola traduca in modo oggettivo i nostri pensieri, finché questa pretesa è esattamente identica a quella di chi ci opprime, noi, secondo me, siamo sulla strada sbagliata. E qua Malatesta ci dà una piccola indicazione, ovviamente si tratta di un secolo fa, però ce la dà questa indicazione, dice: non può esserci accettazione di quello che dice il potere. Stiamo attenti, perché se noi cerchiamo di essere simpatici al potere, di smussare quello che facciamo, quello che diciamo, perché il potere in un certo senso ci dia spazio, ci consenta che questo fare, questo dire possa continuare, siamo sulla strada sbagliata. Questo concetto cosa significa, in altre parole? Che anche questo convegno stesso non può fare eccezione, anche quello che sto dicendo io non scappa a questa regola. Io sto parlandovi perché vi ho voluto parlare e non leggere la relazione, perché nella relazione mi illudo di essere riuscito a scrivere qualcosa che forse fino a in un certo senso condivido, però quando ho nascosto di quello che in effetti avrei voluto dire e non ho voluto dire, avrei potuto dire e non ho voluto dire. Mentre parlando attraverso la parola questo pericolo è minore, perché c'è una comunicatività, un afflato di sentimento che cerchiamo di far passare dall'uno all'altro quando ci stringiamo la mano, quando ci abbracciamo, ed è questo il momento più significativo, più di tensione anarchicamente valida quando ci sentiamo vicini fra compagni, più di quello che pensiamo, più di quello che magari riusciamo a far capire all'altro dei nostri pensieri e così via. Io vorrei lasciarvi qua e ringraziarvi anche. Grazie.